Italia in controluce. Oggi è il 15 novembre, il pomeriggio di Radio 24 con Daniele Biacchessi, Italia in controluce, tutti i giorni la politica, la cronaca, lo spettacolo, il costume. Come si sta organizzando il Popolo della Libertà dopo l'uscita di scena di Silvio Berlusconi alla guida del paese? Inchiesta di Radio 24, Italia in controluce, sottolinea che la base del partito resta emotivamente legata al suo leader carismatico, ma sul piano politico, dopo le dimissioni da premier, sembra essere iniziato il dopo Berlusconi. Il reportage di Cristina Carpinelli. Quel che sul reclutarlo è una storia vera, e lui che è mai sta bondo di no. La base è pronta da tempo a procedere anche senza Silvio Berlusconi, e quanto si capisce facendo un giro per i coordinamenti locali del PDL. Ma come? Starà in piedi il partito senza la guida suprema? E quanto abbiamo chiesto ai rappresentanti locali del partito? È certo però che esiste una minoranza secca che non si smuove e guarda Berlusconi come unico leader. Sono, a guardare bene, i nati con Silvio, i nativi berlusconiani, scesi in campo anche loro senza un trascorso politico antecedente e che in Berlusconi hanno trovato il faro unico, un movimento trasversale fatto di donne, giovani, anziani. Sono le stesse persone che domenica 13 novembre sono andate a manifestare in piazza a Roma tutto l'affetto per il loro leader. Abbiamo deciso di partire qua fino a Roma per mostrare la solidarietà e soprattutto ringraziare il presidente e dirgli che tanti italiani non lo tradiranno, non lo tradiscono e non l'hanno mai tradito. Sono qui in primo luogo per testimoniare al presidente Berlusconi la nostra vicinanza umana. Siamo venuti qui per testimoniare il massimo della stima nei confronti del lavoro svolto da parte del governo uscente. Gente che se gli tocchi il capo tira fuori unghie e denti, soprattutto oggi. Il problema è che è una piccola minoranza all'interno del partito. Quello che invece si respira andando ad ascoltare gli amministratori locali e i coordinatori regionali è aria di autocritica, come ci spiega l'ex sindaco di Chivasso Mottola, oggi consigliere regionale PDL Piemonte. Oggettivamente la base, noi tendiamo un po' sempre a sottovalutare le persone normali che invece sono quelli che ragionano in modo migliore. Immediatamente dopo lo strappo di Fini ha percepito una situazione che sia dal punto di vista del partito che dal punto di vista del governo sarebbe comunque finita in non bene. Questa è proprio la sensazione della gente, della gente che fa parte del partito. Quindi io credo che sia stato tardivo il gesto del presidente, perché non ha neanche poi fatto emergere tutto il buon lavoro che lui ha fatto. Quindi secondo lei, diciamo, dal punto di vista strategico si è perso un treno? Direi di sì. Adesso che in qualche modo il sogno, la figura stessa di Berlusconi è tramontata, secondo lei il PDL riuscirà comunque ad avere un'identità forte? Beh, questa è la sfida, quella di creare veramente una struttura di partito e creare delle regole certe, proprio perché non c'è più il capo che è vero comanda, ma anche risolve, perché poi tutta la pletora di personaggi anche locali che sono stati dietro nascosti dietro il decisionismo di Berlusconi, lei immaginerà, è pieno il mondo, per dire. Le basi per ripartire non possono essere altro che creare delle regole chiare dentro il partito, chi ci sta, chi ci sta, e avere anche il coraggio di perdere dei pezzi. E quali potrebbero essere queste regole chiare, ad esempio? La regola chiara è sicuramente creare una struttura che permetta una dialettica, tra virgolette, perché ne parlano tutti, reale, ovvero io da sempre, poi ho fatto l'assessore, ho fatto il sindaco, sono consigliere provinciale, io credo che soprattutto si debba ripartire da chi amministra, da chi ha il polso della situazione, da chi gira in mezzo alla gente veramente. È mancato, ma questo fa parte sicuramente del personaggio, non è che ci ceni assieme, però un pochettino le percezioni sono poi chiare. Il personaggio non ha, proprio perché è fatto così, non ha capito. Credo un anno fa, quando è iniziato, un anno e mezzo fa, quando è iniziata la faccenda di Fini, come le dicevo prima, che quello era il momento in cui quel dato lì, che era prettamente politico e prettamente di equilibri di governo, sposato a tutte le situazioni di magistratura e anche, mi consenta, di Novella 2000, stavano veramente minando completamente la figura, soprattutto a livello internazionale. Non la pensa allo stesso modo Daniela Ruffino, sindaco di Giaveno, Piemonte, 17.000 abitanti, eletta con il 70% delle preferenze per la seconda volta consecutiva. Con Berlusconi si sapeva che cosa aveva in mente, ora si tratta di capire che cosa questo, che cosa Mario Monti farà. Ad esempio, c'è preoccupazione perché si dice che se ci sarà l'ICI non si riusciranno più a pagare i mutui, se ci sarà la patrimoniale qualche cittadino dice dovrò vendere casa. Ecco, questo è quello che dice la base ed è ovviamente quello che preoccupa noi amministratori. La verità è che la base del PDL era preoccupata anche prima. Del PDL era preoccupata anche prima. Un dato reale che è quello che poi abbiamo percepito anche noi da fuori, immagino che l'abbiate percepito sì. Anche voi da dentro, cioè un po' come se fosse finita un'era, cioè quell'era di Berlusconi, il sogno che poi forse ha mosso tutti quanti voi, è finito. È terminato il periodo di Silvio Berlusconi Premier, il PDL continuerà sotto la guida di Alfano e comunque sempre, direi con una grande forza di Berlusconi all'interno del partito, a lavorare sul territorio. Dunque, nonostante le posizioni nette espresse in piazza, la realtà è che dietro le frasi di amore indiscusso per Berlusconi, date soprattutto ai giornalisti, in realtà la base del PDL qualche ragionamento lo stava facendo da tempo, come ci conferma anche il senatore Ulisse Di Giacomo, coordinatore regionale del PDL Molise. Ricordo che noi usciamo da una recente elezione, perché abbiamo votato per il rinnovo del Consiglio regionale, quindi voglio dire, i nostri sostenitori sono convinti che Berlusconi abbia fatto il passo giusto e necessario per il nostro paese. Senta, al di là della figura di Silvio Berlusconi, questa pagina politica ha messo in rilievo anche quelli che Berlusconi ha chiamato i traditori, no? Coloro che a un certo punto hanno mollato, se ne sono andati in altri partiti. Quanto ha giocato questo movimento di poltrone nella fiducia dell'elettorato di Forza Italia o comunque del PDL? Sono comportamenti e atteggiamenti questi che effettivamente minano la fiducia dei, oltre che degli iscritti, anche degli elettori del Popolo della Libertà. Io rimango del parere che bisogna restare nel gruppo, nel partito in cui si è stati eletti e nel momento in cui non si condivide più la linea politica di quel gruppo, di quel partito, ci si dimette e si torna a casa tranquillamente, non si cambia partito e non si cambia gruppo. E credo sia anche normale un atteggiamento del genere. Chi ha vissuto sin dall'inizio l'avventura prima di Forza Italia e poi del Popolo della Libertà ha maggiori motivazioni per restare fedele al partito e al suo leader storico. La cosa che però sorprende è che in questi 18 anni abbiamo sempre visto una base quasi al limite della criticità. Questo secondo lei è stato un dato positivo o un danno per il partito? Entrambi probabilmente. Avete ascoltato il reportage di Cristina Carpinelli sulla PDL dopo Berlusconi, la seconda edizione in Italia in Controluce. Siamo su Facebook, la pagina, il gruppo, il Twitter, siamo rintracciabili anche via mail con controluce@radio24.it, siamo anche su radio24.it con il nostro blog. Torniamo domani alle 6.30 con la pillola di Italia in Controluce legata ai temi di strettissima attualità.